RAI Radio 3. Benvenuti nel podcast di Fahrenheit. La redazione vi augura buon ascolto. Andrew Lang, uno studioso e folclorista inglese, nel 1884 fu tra i primi a mettere insieme la storia di Cupido e Psiche con quella di due amanti indiani, Urvashi e Pururavas. La più antica forma letteraria del racconto di Psiche e del suo amante si trova nel Rigveda e i personaggi di questo singolare dialogo hanno il nome di Urvashi e Pururavas. Il Rigveda è il più antico documento linguistico indoeuropeo ed è composto da oltre 1000 inni. In questo caso ci troviamo nel Punjab, più o meno 3500 anni fa. Urvashi è una ninfa del mattino e ama Pururavas, un eroe destinato a sconfiggere i demoni. Il suo nome significa più o meno dal forte grido. I due si uniscono, ma la loro unione è soggetta all'osservanza di tre condizioni: fare l'amore 3 volte al giorno, mai senza che anche lei lo desideri e sempre nell'oscurità perché lei non può mai vederlo nudo. Vivono felicemente insieme per 4 anni, fino a che i Gandharva, gli inebriati Gandharva, sono delle divinità maschili delle acque, tradizionali compagni delle Apsaras, quindi di Urvashi, decidono di separare i due perché invidiosi del loro amore. Così recita il Rigveda. Una pecora e 2 agnellini erano legati al suo giaciglio. I Gandharva rubarono uno degli agnelli. «Ahimè», lei disse, «portano via il mio figliolo», come in un luogo senza eroi e senza uomini. Pururavas allora pensò tra sé, come può essere senza eroi e senza uomini il luogo dove io vivo? E nudo com'era, balzò in piedi e li rincorse. In quel momento i Gandharva provocarono un lampo. Lei lo vide nudo come fosse giorno e scomparve. Pururavas, triste, in preda allo sconforto, vaga per il mondo alla ricerca dell'amante scomparsa. Un giorno la ritrova in uno stagno di fiori di loto in sembianze di cigno. Tutte le sue preghiere però perché ella torni da lui sono assolutamente vane. Inutile anche che minacci di uccidersi, di buttarsi giù da una rupe o di farsi divorare da una belva feroce. Così continua il testo vedico. Alla fine Pururavas toccò il suo cuore e lei disse: «Torna qui l'ultima notte del prossimo anno, potrai giacere con me per una notte e allora tuo figlio sarà nato». Egli ritornò l'ultima notte dell'anno ed ecco, lì sorgeva un palazzo dorato. Gli dissero solo questa parola: entra. Poi invitarono lei ad andare da lui. La storia medica, vediamo, rimescola apparentemente il gioco delle parti tra il maschile e il femminile e non possiamo prendere una decisione su questa alternanza, su questa diversità rispetto alla trama base del mito o della favola di Amore e Psiche. In ogni caso ritroviamo il tracciato, anche nella storia indiana, ritroviamo il tracciato di un tema dominante, un divieto legato a delle nozze o nel caso di società così remote è difficile usare termini esatti, quindi possiamo dire in maniera più generale legata all'unione tra un uomo e una donna, un divieto legato all'unione tra un uomo e una donna, l'amplesso segreto nell'oscurità, il palazzo dorato, parenti invidiosi che creano la separazione dei due amanti, l'infrazione e lunghe peregrinazioni alla ricerca del bene perduto. Gli antropologi e gli studiosi del folklore suggeriscono per il mito di Urvashi e Pururavas, così come per la storia di Amore e Psiche e per le favole del ciclo imparentato, parlano di usanze remote legate alla pubertà o a riti nuziali, trasformate poi in racconti fantastici. Non si può non notare in questa storia la grande libertà della donna, di questa ninfa Urvashi all'interno di questo inno e verosimilmente nella società vedica, perché nel testo c'è una piccola frase significativa quando la ragazza chiede di far l'amore 3 volte al giorno e che mai senza che lei lo desideri non lo può mai vedere nudo, aggiunge: queste sono le usanze di noi donne, ovvero sia non è una peregrina richiesta della ninfa Urvashi, ma è un'usanza stabile nell'India vedica o nella Persia o comunque in quell'ampia zona che va dall'altopiano iranico all'India del nord in cui si sviluppò, sembra, la società vedica. Il professor Saverio Sani, indologo all'Università di Pisa, ci raccontava come la donna dell'India vedica fosse assolutamente più libera della donna dell'India, dell'India successiva, del periodo successivo, quindi dell'India classica, e che il Rig Veda contiene anche inni composti da donne. Quindi una società così remota e una donna così libera. Per la prima volta avvistiamo per l'appunto questa trama tra l'altipiano iranico e la Persia più o meno intorno al 3500 a.C. RAI Radio 3.